Ho una confessione da farvi, sì, una confessione. Giorni fa, quando vigeva ancora il blocco parziale del traffico e la circolazione di conseguenza era un po' più scorrevole del solito, ho commesso una sciocca imprudenza. Mentre percorrevo al volante la cerchia dei bastioni, sono bruscamente passato senza un vero motivo da una corsia all'altra, tagliando, come si dice, la strada all'autoveicolo che arrivava da dietro. E per fortuna chi stava al volante di quell'auto disponeva di riflessi fulminei di freni in condizioni perfette, per cui ha prontamente bloccato la macchina, non mi ha investito, e visto che su quella corsia non stava sopravvenendo nessuno pronto a investire lui, la cosa è finita lì, senza danni per nessuno. Ora, visto che qua siamo tra amici, devo ammettere che come guidatore non sono poi un granché. Non sono particolarmente spericolato, non mi diletto di alta velocità, ma un po' distratto lo sono e questo ha qualche conseguenza. In effetti, familiari ed amici, compreso la camera qui presente, tendono a considerarmi una permanente minaccia per il traffico pedonale e motorizzato, e da me si fanno trasportare soltanto in caso di assoluta necessità. In 40 anni di pratica dell'automobile non mi sono mai capitato di incidenti gravi, ma si vede che quando guido sono più fortunato di quanto non meriti. Questa volta comunque non l'ho passata liscia. Il guidatore dell'auto, che non mi ha investito, ha ritenuto opportuno farmi capire che avevo commesso un errore. Al semaforo successivo si è accostato, ha abbassato il finestrino e mi ha spiegato con poche espressive parole che certe cose non si devono fare. Beh, come vi dicevo, aveva ragione, insomma, non aveva mica torto, per cui anche se non aveva parlato in tono cortese, anche se mi aveva dato del tu nonostante che nessuno ci avesse mai presentato e io fossi di età ostensibilmente più anziana, e mi avesse anche rivolto un paio di epiteti che col codice della strada non avevano nulla a che fare, io ho pensato che non fosse il caso di polemizzare. Io ho brevemente risposto che aveva ragione e l'ho pregato di scusarmi. Non ho aggiunto che non l'avrei fatto più perché non era di fronte a voi che sentivo di dover assumere un simile impegno, ma ho cercato di esprimere con un sorriso di circostanza e con un tono afflitto della voce il rincrescimento che provavo. E non credo di esserci riuscito, no, non credo di esserci riuscito, perché di fronte a quell'urbana risposta il tipo si è arrabbiato davvero, si è messo a urlare. E come mi permettevo, mi ha chiesto in termini sempre meno diplomatici, come mi permettevo di parlargli in quel modo? Credevo forse di prenderlo in giro. Lui, da tipi come me, in giro non si lasciava prendere certo. Non ha detto esattamente che a lui che aveva ragione non l'aveva mai detto nessuno, ma era chiaro che a scusarmi non ci pensava proprio. Per fortuna che nel frattempo il semaforo era passato al verde, per cui, ignorando i miei deboli tentativi di fargli capire che non avevo la minima intenzione di mancargli di rispetto, ha premuto il piede sull'acceleratore ed è scomparso nel traffico, lanciandomi senza dubbio oscure maledizioni. E io ci sono restato male. E non vedevo cos'altro avrei potuto rispondergli nelle circostanze che vi ho descritto. Mi chiedevo come mai se la fosse presa tanto. E mi ci è voluto un po' per capire il suo punto di vista. Per capire che nella vita capita tanto di rado di essere chiaramente della parte della ragione, di poter far pesare su qualcun altro questa situazione di privilegio, che è umano volerne approfittare. Esercitare la propria censura su qualcun altro, sia pure un estraneo che ti ha tagliato la strada sui bastioni, rappresenta sempre una manifestazione di autorevolezza, se non proprio d'autorità, un indubbio surrogato di quel potere di cui quasi tutti nella vita ordinaria siamo straordinariamente sprovvisti. Il potere, quando lo si esercita, anche solo a livello simbolico, lo si desidera gustare un po', no? Se la controparte si limita a condirti via con un atto di pusillamine remissività, se non fa neanche la minima resistenza dandoti agio di prolungare per un poco il tuo status di autorevole rimproverante, ti toglie qualcosa che in un certo senso ti è dovuto, e è ovvio che a questo punto ti arrabbia ancora di più. In definitiva mi ero dimostrato davvero scortese. Ciascuno inferisce il futuro della propria esperienza quotidiana, e nell'esperienza quotidiana corrente non è previsto che chi taglia la strada a qualcun altro ammetta la sua responsabilità senza un'adeguata coazione. Quel poveretto aveva sicuramente previsto che io, obbedendo all'etichetta implicita che vige in simili casi, gli avrei risposto a male parole, che lo avrei invitato a badare gli affari suoi, a fare la predica ove mai gliene fosse punta vaghezza a sua sorella. Probabilmente si era già preparato a qualche soddisfacente ritorsione e mi avrebbe fatto vedere chi era lui, mi avrebbe dimostrato che non si lasciava menare per il naso, me ne avrebbe dette di tutti i colori. insegnandomi una volta per tutte che non bisognava tagliare la strada a nessuno e a lui meno che mai. Dal successivo scambio di insulti sarebbe uscito vincitore, traendone la debita gratificazione per l'ego e quel senso di catarsi che, a detta di Aristotele, segue sempre al dispiegamento di una forte emozione. E tutto questo gli veniva vilmente negato da una frettolosa ammissione di colpa, seguita da poche stentate parole di scusa. Altro che arrabbiarsi, è una roba da schiattare di rabbia. E vabbè, che volete che vi dica? Io spero che quell'ignoto automobilista sia in ascolto. Devo fargli un'altra volta le mie scuse più sincere. Devo assicurargli di fronte a voi tutti che non lo farò più. E stia pure tranquillo che la prossima volta che mi capiterà di tagliargli la strada e lui avrà qualcosa da ridire, non mi scuserò affatto. Lo manderò a fare un bagno senza alcuna remissione. Mi informerò su chi gli abbia concesso la licenza di guida. Metterò in dubbio la serenità della sua vita coniugale. Gli spiegherò nei dettagli che cosa penso dei suoi ascendenti dal ramo materno e paterno. E vinca il migliore.